prima edizione. L'informazione del mattino. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città. La sua Milano e poi Firenze, Verona, stanno arrivando i grazie dei sindaci ad Adriano Celentano. Perché? Perché a Sanremo Celentano ci sarà, non si sa ancora per quante serate, si attende ancora la firma sotto il contratto, ma quel che è certo è che devolverà il suo compenso in beneficenza e emergency e alle famiglie povere appunto di 7 città. Vedremo quali. Si parla di 350.000 euro se interverrà in una serata, 700.000 se la performance saranno due, 750 se apparirà 3, 4 o anche 5 volte. Tutto in beneficenza, dice lui, e addirittura pagherà per andare a Sanremo, aggiunto provocatoriamente, sentitelo, il direttore di Rai 1, Mauro Mazza. Del pagamento di tutte queste tasse che lo Stato italiano chiede sulla beneficenza se ne farà carico interamente Celentano. Celentano, Adriano Celentano, per venire a Sanremo spenderà un sacco di soldi, ma almeno potrà dare il compenso guadagnato con il suo lavoro tutto in beneficenza, fino all'ultimo euro. Costerà a Celentano andare a Sanremo, e sentite cosa ha detto anche Gianni Morandi. Sì, ho sentito delle dichiarazioni di politici che hanno parlato di scempio, di immoralità in questo momento. Questi politici parlano male degli artisti, credono di risolvere in questo modo i problemi che ha creato la politica negli anni. Voglio dire, loro parlano, ma forse solo per apparire sui giornali, non lo so, si deve parlare di Celentano per apparire sul giornale. Poi, parlando del compenso di Celentano, il compenso di Celentano, non c'è un artista italiano che può costare più di Celentano. Chi c'è? Ditemelo voi, chi c'è che costa più di lui, che vale più di lui? Celentano, chi è che discute quello che vale Celentano? Per me vale il triplo di quello che chiede. E chi lo sa, ognuno la pensa come vuole. Tra poco noi andremo sulle prime pagine dei quotidiani. Perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba. E no, e andiamo avanti così, chissà come si farà. Prima edizione. E come vi abbiamo anticipato, naturalmente sulla situazione maltempo, l'emergenza che riguarda non solo le strade ma anche le scuole a Torino, anche gli ospedali, continueremo ad aggiornarvi per tutta la mattina. Ma prima, sulle prime pagine dei quotidiani, per vedere le notizie che oggi hanno risalto nelle aperture, il Sole 24 Ore cominciamo. Disoccupato un giovane su tre, i dati oggi dell'Istat. Monti ora misure per la crescita e l'occupazione, mai più lavori affidati al fato. Servono regole e riforme, già vi dico il commento sul Sole 24 Ore di Alberto Orioli. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore le altre due notizie che troverete un po' dappertutto e che sono i temi principali di quest'oggi: l'allarme maltempo, appunto, il Sole 24 Ore stima già danni per 250 milioni di euro, e poi il nuovo redditometro in arrivo entro giugno, annunciato dal direttore generale dell'Agenzia delle Entrate Befera, che nel 2011 dice: abbiamo già effettuato 2 milioni di controlli. Così il Sole 24 Ore di questa mattina. Corriere della Sera sceglie la stessa apertura: lavoro, i numeri dell'emergenza, Confindustria e sindacati, documento comune per la riforma. Domani è giovedì e ci sarà un nuovo incontro importante, mentre è disoccupato un giovane su tre, regole tedesche per crescere di più, è il commento di Maurizio Ferrera sul Corriere della Sera. La Stampa sceglie anche qui la stessa apertura: emergenza lavoro, Monti, fondi europei per aiutare i giovani, e a centropagina a giugno il nuovo redditometro Befera, che annuncia avrà 100 voci di spesa. Il Messaggero sceglie invece l'apertura su questa seconda notizia, sono queste due sostanzialmente che si contendono le aperture questa mattina: fisco nuovo redditometro, l'Agenzia delle Entrate nell'ultimo anno ha recuperato 11,5 miliardi di evasione, arriva il gelo, città in tilt, allerta neve anche a Roma, ricorda il Messaggero. La Repubblica, sulla stessa scia dell'evasione fiscale, la Repubblica ne sta facendo un cavallo di battaglia, come peraltro abbiamo fatto anche a Radio 24. nuovo redditometro antievasione all'apertura questa mattina della Repubblica, che annuncia, ricorda che sono stati annunciati da giugno controlli di massa con un occhio elettronico su 400 milioni di dati e verifiche su tutti i conti correnti. Questo mentre ci sono disoccupati record oltre 2,2 milioni di euro. Il centro pagina della Repubblica, l'immagine di questa mattina non è, come per la maggior parte dei quotidiani, dedicata al grande freddo in arrivo, bensì a Celentano strapagato a Sanremo, ne abbiamo appena parlato anche noi, che dice però darò tutto in beneficenza, e però la polemica ovviamente quanto mai aperta. Ma la RAI è spaccata anche da un'altra vicenda, a questo è dedicato il centro pagina della Repubblica di quest'oggi, da qui vi leggo: la RAI si spacca il CDA, Maccari resta al TG1, Garimberti dice ingovernabile, Rizzo Nervo si dimette. Insomma, per il TG1 davvero non sembrano finiti i guai dopo le decisioni pur arrivate ieri. Anche qui gelo e neve sui mezzi Italia anche per quanto riguarda la Repubblica, ma da qui vi segnalo altre due notizie invece. Da una parte l'addio alla borsa di Benetton dopo 25 anni, operazione da 200 milioni e la Consob che annuncia siamo già pronti a vigilare. E poi ancora dalla prima pagina della Repubblica un rapporto shock di FAI e WWF, che ha censito come sta andando sul fronte del cemento, della cementificazione l'Italia, sempre più abusivismo, dice questo rapporto, l'Italia del cemento fa scomparire 75 ettari al giorno, così il rapporto pubblicato oggi da La Repubblica. Altre notizie, anche il Corriere della Sera ha in evidenza la situazione difficile per la RAI, le nomine spaccano la RAI, scrive il Corriere della Sera, TG1 a Maccari, TGR a Casarin con i voti solo di PDL e Lega, ma il Corriere della Sera ha un'altra notizia da segnalarvi in prima pagina. E si parla delle gemelle Kessler, hanno entrambe 75 anni e raccontano: tra noi c'è un patto sull'eutanasia. Le due gemelle Kessler, vissute insieme, carriera insieme, dicono: tra noi c'è un patto, nessuna delle due vuole soffrire, c'è un patto sull'eutanasia. E anche questo naturalmente è un tema che quando viene aperto poi il dibattito lo suscita sempre. Centro pagina del Messaggero per aprire un altro capitolo. Anche questo lo trovate un po' su tutti i quotidiani, ma è il Messaggero che sceglie di metterlo in grande evidenza. L'ex tesoriere della Margherita Lusi che dice: mi assumo le mie responsabilità, ma vi racconto la mia verità sui soldi spariti. Perché? Perché che è successo? È successo che la Margherita è un partito che non esiste più da 5 anni, ma tuttora dispone di un patrimonio superiore ai 20 milioni di euro, una sorta di partito fantasma che però è quanto mai una cassaforte. Ebbene, il suo tesoriere, senatore Luigi Lusi appunto, si è assunto davanti ai giudici la colpa di essersi appropriato di 13 milioni. E tra le varie giustificazioni che ha dato c'è anche stata quella che doveva comprarsi casa, e ovviamente anche questo, questa è stata la sua verità raccontata ai giudici. Queste le notizie di oggi, un ultimo intervento ve lo segnalo, di questo parleremo anche noi più avanti a prima edizione, riguarda le lauree, il valore legale della laurea, no a carriere fondate sulla laurea, ecco perché va rivisto il valore legale, un intervento questa mattina sul Messaggero di Piero Giarda. E allora ne parleremo anche di questo più avanti, ora però come sempre a prima edizione lasciamo le prime pagine dei quotidiani, qualche spunto in più da Alessandro Milan attorno alle 7:20 e torniamo invece all'attualità di queste ore. Torniamo perché vi abbiamo promesso di aggiornarvi su quella che è la situazione del maltempo, e allora ci aiuta questa mattina Valeria De Rosa. Buongiorno Anna, a te e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, finalmente per qualcuno, non per tutti, freddo e neve sono arrivati, i fiocchi cadono su alcune regioni del centro-nord, addirittura in Alto Adige sono attese temperature fino a meno 20. La neve è attesa anche a Venezia, in Liguria e in Sardegna. Allerta neve a Bologna e a Roma, dove si attendono i fiocchi domani e dopodomani, mentre a Firenze e a Milano, e lo possiamo vedere noi da qui, nevica da ieri. A Torino da oggi e fino al 5 febbraio l'ospedale Molinette chiuderà l'attività con non urgente, perché la centrale termica per il riscaldamento e il condizionamento non è in grado di affrontare temperature polari. E poi scuole chiuse in alcune province del Piemonte e della Liguria, chiuse anche in provincia di Pesaro Urbino, in Toscana sono chiuse a massa, invece sono aperte a Firenze per decisione del sindaco, una decisione che ha suscitato non poche polemiche. Autostrade per l'Italia ha disposto il temporaneo stop dei mezzi pesanti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e in Toscana. E per quanto riguarda le regioni invece del sud, c'è un allarme pioggia, perché dopo una tregua di alcune ore è tornata l'acqua nella gran parte della Calabria. Le temperature restano sempre molto rigide, le zone maggiormente colpite dalle precipitazioni sono purtroppo come sempre quella del Regino e del Cosentino. Allerta pioggia anche in Sicilia. Purtroppo c'è da registrare anche i primi incidenti. Il primo è un incidente mortale e ieri sera poco prima delle 23 nella divisione di terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina è morto il bambino di un anno rimasto nell'auto precipitata in una voragine coperta poi dalle acque di un torrente tracimato alla periferia di Siracusa e quindi in Sicilia. A Milano un altro incidente, dove continua a nevicare, in via Enrico Fermi, in un incidente appunto stradale causato probabilmente dal ghiaccio sull'asfalto, è rimasta ferita gravemente una donna di 46 anni. Per quel che riguarda Milano si susseguono le telefonate al 118 per aiutare i clochard in difficoltà. È stato aperto il mezzanino della metropolitana della stazione centrale per assicurare un rifugio a chi ne ha bisogno. E per il momento è tutto. Grazie. E grazie a Valeria De Rosa. La ritroveremo anche più avanti, già vi anticipo, tutta la mattina ci terrà informati sulla situazione. Come sentivamo, nevica ancora in molte zone, e in molte zone le scuole sono chiuse. Un balzo, come spesso ci capita, prima edizione. Andiamo invece ora negli Stati Uniti, dove nella notte c'è stata un'altra sfida importante per le primarie repubblicane, per conoscere il nome di chi sarà davvero lo sfidante di Obama alle prossime presidenziali. Sembra ormai davvero trionfare Romney, ma andiamo in Florida da Mario Platero. Mario, ci sei? Buongiorno Anna, eccoci. Beh, dunque, la Florida è chiusa, io sono qui a Tampa. Mitt Romney ha vinto, si sapeva che avrebbe vinto perché era in testa ai sondaggi, non si sapeva che avrebbe vinto con una maggioranza così forte come quella che ha accumulato nella nottata, il 46%, oltre il 46% dei voti. Mancano ancora alcuni seggi da chiudere, però insomma ormai siamo lì, il risultato è acquisito, per essere precisi il 46,4% contro il 33% di Newt Gingrich, quindi una maggioranza di quasi il 15% rispetto al suo concorrente diretto. L'obiettivo di Romney era chiaro, era quello di ridimensionare Gingrich, che arrivava forte dopo una vittoria in South Carolina. Romney era in gravi difficoltà. In Florida ci sono 50 delegati alla convention e soprattutto vengono assegnati tutti al vincitore, quindi Romney è arrivato con la paura, e la paura a volte aiuta, perché si è rimesso in carreggiata, ha vinto molto bene i due dibattiti, ne abbiamo parlato su America 24 quando ero a Tampa, poi a Jacksonville. La strada a questo punto è spianata, perché è molto forte in Nevada, in Colorado, in Minnesota, in Michigan, dove suo padre era governatore. A questo punto, secondo te, abbiamo lo sfidante di Obama? Ragionevolmente? Ma guarda, ragionevolmente sì, certo Gingrich ha detto che resterà in campo, questo 33% resta comunque un buon risultato per lui. Il Super Tuesday che avverrà a marzo, dove ci saranno 466 delegati, gli porterà un po' più di fortuna, perché ci sono stati del sud, l'Alabama, il Tennessee, e se andiamo a vedere dove ha vinto in Florida, Gingrich ha vinto proprio al confine con la Georgia, si voterà anche in Georgia nel Super Tuesday, dicevo, ai confini con la Georgia e confini con l'Alabama, dunque il profondo sud è per lui, e quindi potrà ancora far bene il Super Tuesday, ma non credo che alla fine riuscirà ad accumulare abbastanza delegati, cioè 1144, quelli necessari, per poter impedire a Romney di vincere la nomination proprio qui a Tampa, perché la convention alla fine d'agosto, il 28 d'agosto, partirà qui a Tampa, in Florida. Prima edizione. Come sempre, le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. È il primo giorno di febbraio e vi parla Daniele Biacchessi. Dopo i terremoti che hanno colpito nei giorni scorsi il nord Italia, si torna a parlare di prevenzione e di mappe sismiche. I terremoti, dice il capo della Protezione Civile Gabrielli, non si prevedono. Il problema è capire in quale zona ci si trova, verificando dunque che gli edifici siano a norma, siano cioè in sicurezza. Gian Michele Calvi è docente di ingegneria sismica allo IUIS di Pavia ed è presidente della fondazione Eurocenter. Lo ha intervistato Katia Caramelli. Quando si parla di pericolosità si fa riferimento unicamente alla probabilità che si verifichi un evento sismico, quindi una mappa di pericolosità indica qual è la probabilità che si verifichi un certo terremoto con una certa magnitudo in un certo intervallo temporale. Che cosa emerge per quanto riguarda l'Italia? Le mappe indicano come particolarmente pericolose le zone che stanno nell'Appennino centrale, nell'Arco Calabro e nel Friuli orientale. Il lavoro che è stato fatto negli ultimi 10 anni, diciamo, per quanto riguarda sulla pericolosità è molto buono, quindi più che avere un'immediata necessità di rivedere le mappe di sola pericolosità, la parte su cui c'è molto lavoro da fare è la parte relativa al costruito, quindi le mappe che vanno sotto il nome di vulnerabilità e che indicano quindi qual è la probabilità che un edificio subisca dei forti danni in caso di evento sismico, quindi sul lato, diciamo, di quello che accade piuttosto che sul lato della probabilità di un evento. Se io le dico che c'è un'alta pericolosità, cioè un'alta probabilità che si verifichi un evento, ma gli edifici sono tutti costruiti molto bene perché da decenni si obbliga a seguire norme buone per la pratica costruttiva, allora lei potrebbe avere meno danni in quella zona che per un evento magari di minore intensità, di minore magnitudo, in una zona in cui il costruito è peggiore. E questo lo si sta facendo già? È stato fatto parecchio negli anni passati, ma soprattutto con riferimento ad alcune particolari tipologie costruttive, quindi ci sono molti dati sulle scuole, ci sono buoni dati sugli ospedali, ci sono buoni dati sugli edifici pubblici, molto poco è stato fatto in tutto il costruito privato, non molto è stato fatto su molte, per esempio, infrastrutture per il trasporto, quindi autostrade, rete stradale, rete ferroviaria. Queste mappe tengono conto dell'Italia come un unico blocco di roccia, invece dipende anche un po' dal tipo di terreno dove si va a verificare dell'evento. Le mappe di pericolosità danno un'indicazione di quella che è la probabilità che si verifichi un evento e conseguentemente di quale accelerazione gli edifici subirebbero, di quale scossa gli edifici subirebbero, nell'ipotesi che siano tutti costruiti sul medesimo tipo di terreno, quindi su un terreno ben addensato, su un terreno, diciamo, lei l'ha chiamato roccia e chiamiamolo roccia. Sì. È evidente però che l'Italia, anche per la sua configurazione geografica e topografica, essendo quindi in presenza di montagne, di pianure, di fiumi e così via, ha molti edifici costruiti su coltri deposito alluvionale, ha edifici costruiti su pendii, ha edifici costruiti sulle creste di qualche separazione appenninica. Tutto questo porta a possibili amplificazioni del moto sismico. Avete sentito Gian Michele Calvi, docente di ingegneria sismica a Pavia e presidente della fondazione Eurocenter, intervistato da Katia Caramelli. Torniamo oggi con nuovi reportage alle 13.30 su Radio 24. Buona giornata anche da Anna Migliorati per la seconda parte di Prima Edizione. Il 31% di giovani italiani senza lavoro e università con studenti di età avanzata. Di questo vogliamo parlare questa mattina. C'è una lettera aperta del ministro per i rapporti con le in Parlamento, Piero Giarda, questa mattina sul Messaggero, che dice: no a carriere fondate sulla laurea, ecco perché va rivisto il valore legale nelle nostre università. Scrive tra l'altro il ministro: ci sono studenti che frequentano e sostengono esami solo per l'obiettivo di una laurea triennale da far valere per gli avanzamenti di posizione. Tutto va rivisto, dice. Noi vogliamo parlarne con due ospiti questa mattina e allora saluto il rettore di Padova, Giuseppe Zaccaria. Buongiorno a lei, buongiorno. E il rettore di Bari, Corrado Petrocelli, buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. La discussione è più che mai aperta. Il titolo di laurea deve avere o non avere valore legale? Tutte le lauree hanno o non hanno lo stesso peso? Vogliamo discuterne con voi questa mattina per vedere quali sono i punti di vista. Non a caso abbiamo scelto un ateneo del nord e un ateneo del sud. Vi chiedo come prima domanda, secondo voi dovrebbe mantenere il titolo di valore legale il titolo di laurea, professor Zaccaria? Ma la risposta non può che essere un momento articolata, in questo senso ci sono due profili. Il primo è quello del valore legale del titolo come una sorta di garanzia sugli studi universitari che è fornita dallo Stato. Mi spiego, se devo fare il medico, devo fare l'architetto, lo Stato garantisce che la mia laurea in architettura o in medicina è funzionale a questa futura professionalità. Da questo punto di vista, a mio avviso, il valore legale del titolo deve rimanere. Altro è il discorso che in questi giorni è stato avanzato, anche se poi non risolto, quello cioè di un possibile uso differenziato del valore legale del titolo di studio, ad esempio nei concorsi pubblici. Petrocelli, è d'accordo? Ma io sono ovviamente d'accordo quando il collega Zaccaria, che è noto per il suo equilibrio, dice che si tratta di questione complessa e da verificare su vari livelli, naturalmente ha ragione. Siccome si sta facendo un polverone in questi giorni in cui si dice che bisogna dare spazio alle capacità dei singoli, al curriculum che ciascuno si è creato, ovviamente bisogna mettere un limite a tutto questo. Per semplificare, non credo che lei si farebbe curare da me, che ho una laurea in filologia classica, né ristrutturare la casa, né difendere in tribunale, né verificare il bilancio se ha un'impresa. E viceversa, dubito che andrebbe da un'altra persona per farsi tradurre un brano di Platone se non fosse sicura che quello effettivamente ha le competenze per poterlo fare. Quindi su questo non c'è alcun dubbio, questo primo livello deve rimanere. Quanto all'altro livello, naturalmente si può discutere. Credo però, e vorrei che su questo si insistesse, che l'unico veramente dato reale è la valutazione del merito personale di ciascuno. Cioè c'è un solo modo per operare una verifica, che è quella di verificare la preparazione dei singoli. Tutte le argomentazioni in questi giorni utilizzate anche prima, anche da illustri giuristi, Cordini, Cassese, anche da tanti altri, mirano naturalmente a questo. Bisogna stare attenti al fatto che c'è qualcuno che combatte il valore legale ma vorrebbe magari legalizzare il valore differenziato del titolo di studio, e questo non è altrettanto possibile. E allora io le chiedo, le lauree sono diverse, ma sono diverse anche le università? Uno studente che prende una laurea da lei, Zaccaria, vale come uno studente che prende una laurea con lo stesso punteggio a Bari da Petrocelli? E poi chiederò anche a lei. Ma io questo non sono in grado di dirlo e non sono, come dire, non ho funzioni di agenzia terza, di ANVUR o di agenzia di valutazione. Ma se ci fosse un'agenzia di valutazione, dovrebbero avere un peso diverso le lauree a seconda dell'università? Io sono d'accordo nel valutare la prospettiva che possa avere appunto un valore differenziato il titolo di studi, perché partiamo dal presupposto che diversamente dovremmo dire che tutte indistintamente le università sono del medesimo livello quanto alla qualità del titolo di studio che rilasciano allo studente, e questo è palesemente non è vero e non è verificabile che non è così. Varrebbe di più o di meno da lei? I modi con cui farlo sono tutti da vedere, insomma. Però andrebbe fatto, secondo lei, Zaccaria? Sì, secondo me sì. Varrebbe di più da lei una laurea? Non affrettato, ma credo che il problema esista, credo che il problema ci sia. Petrocelli, se qualcuno le dicesse che una laurea da lei vale meno e stiamo facendo solo delle ipotesi rispetto a quella che invece firma il suo collega di Padova, sarebbe d'accordo? Ma guardi, allora, primo, nessuno si vuole sottrarre né alla competizione né alla valutazione, che come diceva il collega Zaccaria sono fondamentali. Naturalmente c'è un elemento di base che però ci deve accompagnare tutti, questo l'ha detto di recente anche il mio collega di Università del Nord, che è il rettore di Bergamo. Naturalmente non stiamo facendo distinzioni nord sud, al nord c'è tutto il meglio e al sud c'è tutto il peggio, non è quello che vogliamo dire. Ma questo lo so bene, anche se c'è qualche maître à penser che è intervenuto di recente con esempi che non a caso dicono, se per esempio la laurea presa in Lombardia è diversa rispetto a quella che è stata presa in Sicilia. Abbiamo preso voi due come esempio. Se le dicessero domani mattina la laurea dei suoi studenti, quella che firma lei, vale meno, ci starebbe ad essere valutato? Il problema è questo. Primo, perché ci sia competizione e valutazione, che noi vogliamo tutti, bisogna che questa sia equa, costruttiva e quindi fondata su un sistema di regole chiaro, trasparente, valide e applicabile per tutti. Questo è il punto primo. Secondo, può essere qualcuno bravo a prescindere? Cioè, l'ha detto di recente molto bene Luciano Modica, veramente noi dobbiamo far sì che il peggiore dei laureati di un'università X sia a prescindere migliore del migliore dei laureati di un'università Y? Io non credo. Io credo che si debba invece costringere le università a dare effettivamente ciò che promettono in termini di preparazione e in termini servizi, naturalmente. Dopodiché ci sia una valutazione. Guardi, la ricchezza del nostro sistema universitario è data dalla sua estrema diversità. Quando si dice che non tutti possono o devono fare tutto, si ha assolutamente ragione, ma il tutto è a macchia di leopardo. Ci sono eccellenze dovunque, si valutino i corsi, l'accreditamento va benissimo e si saprà l'accreditamento che tipo di risultati dà, ma questo non significa che si deve legalizzare, come dicevo prima, una differenza, anche perché quando le parlavo prima del maître à penser, allora, sì, io quello che volevo essere chiaro sul punto, Zaccaria. quando dicevo precedentemente, faccio un esempio, che il punteggio con cui mi sono laureato o mi laureo dovunque conti meno nella graduatoria finale di un concorso pubblico e conti di più il merito, mi pare una cosa ineccepibile. Cioè qui non stiamo dicendo che c'è un valore differenziato, come dire, legalizzato ab origine, no? Cioè, ma che riguarda priori, solo nello specifico la possibilità nei concorsi pubblici di valutare di più il merito e meno un automatismo che è dato da un punteggio. Da un punteggio dato, quindi è un discorso diverso da una legalizzazione, come dire, da una legalizzazione a priori di un titolo differenziato. Non so se è chiaro. Chiarissimo, chiarissimo. Vi chiedo una piccola pausa, anche vista la neve, per il traffico, poi c'è un'altra questione che vorrei affrontare. Prima edizione. E con noi ancora c'è il rettore dell'Università di Padova, Giuseppe Zaccaria, e il rettore dell'Università di Bari, Corrado Petrocelli. C'è un'altra questione, dicevo, che vorrei affrontare con voi. Ha fatto discutere la battuta sugli sfigati a 28 anni senza una laurea. Una battuta infelice o che ne pensate, Zaccaria? Ma è stata una provocazione infelice, come dire, che tuttavia tocca un problema reale. Quello cioè cui si voleva e si intendeva porre riparo anche con la riforma del cosiddetto 3+2, che però poi non ha avuto da questo punto di vista effetti felici. Quello cioè che spesso i nostri studenti arrivano tardi, come sistema italiano universitario, sul mercato del lavoro, sul mercato del lavoro rispetto ai loro colleghi stranieri. Ecco, Petrocelli. La battuta è stata infelice, ma il problema c'è. Petrocelli. Sì, battuta infelicissima, perché bisognerebbe avere rispetto per le persone e cercare di capire che cosa significa l'ingresso per la prima volta, per esempio, in una famiglia che non ha mai avuto laureati al proprio interno, di un laureato. Se stiamo a guardare quelli che si laureano tardi per altre ragioni, perché hanno fatto una cattiva scelta, perché l'ateneo non è in grado di accompagnarli con delle forme di tutoraggio serie, perché non hanno avuto un tutoraggio prima, un orientamento decente, come diceva giustamente il collega Zaccaria, noi dobbiamo essere efficaci da questo punto di vista per ridurre i tempi, ma le casistiche ovviamente sono tante, e non è questo che può dare vita a un giudizio di quel genere, perché non è questa la tipologia con la quale noi dobbiamo giudicare. Dobbiamo giudicare altro, e altro significa che ci debbano essere delle condizioni che mettano gli Atenei di poter competere ed essere valutati, come dicevo prima, in maniera trasparente e su basi che siano uguali, fermo restando che c'è poi una diversità che caratterizza la diversità di ciascuno tra le varie discipline, naturalmente, o altro. Certamente rischiamo che ci siano possibilità per gruppi economicamente più forti di ottenere i titoli più valutati o magari più pubblicizzati. Diciamo, sarebbe un indebolimento. Battute infelici dietro le quali però ci sta un mondo e ci sta una discussione per entrambe le questioni che avete posto. Di uguaglianza che vanno salvaguardate. L'università è stato il più grande ascensore sociale di questi ultimi decenni, vorrei che non fosse dimenticato. Grazie, grazie davvero per essere stati con noi ed entrambi. Il rettore di Padova, Giuseppe Zaccaria, buona giornata. Grazie, grazie a voi. E il rettore di Bari, Corrado Petrocelli, grazie anche a lei. Grazie, arrivederci. Grazie. Siamo davvero in chiusura, ultimissime battute, incombe GR24, naturalmente in primo piano non potevamo non avere questa mattina il maltempo e la neve con ancora Valeria De Rosa. Sì Anna, allora saranno 10 giorni di freddo intenso su tutta la penisola, a Genova sono caduti i primi fiocchi, poi però la neve è arrivata a Torino, a Milano, a Firenze, allerta neve a Bologna, a Roma, si attendono i fiocchi anche in Sardegna, mentre in Calabria e in Sicilia si teme per la pioggia già intensa, di questo ovviamente parleremo in apertura di GR24. Perché l'appuntamento è davvero tra pochissimo con le ultime notizie, a cominciare come sentivate dalla neve. Grazie a Valeria De Rosa, grazie a Peter Bescapè, naturalmente restano qui, anche noi ci risentiamo tra pochissimo con GR24. Buon mercoledì da Anna Migliorati.